de emoción y tu pendejo le tengo en mente, no sé en tu mañana. Emoción y estupende. Le cerco llenamente, ma non trovo mai niente. Circa del tramonto c'è un grande desiderio di sogno che aspetta una nuova alba che si dissolva nel cosmo. Anche se in questo immenso vuoto non so nemmeno dove sono. Ma in questo deserto farò nascere un fiore per bagnarlo di lacrime, di gioia e di dolore. E tutto questo senza alcun timore, invece di avanzare all'indietro senza un cuore. Ma in questo deserto farò nascere un fiore per bagnarlo di lacrime, di gioia e di dolore. Questo senza alcun timore, invece di avanza dall'indietro senza un cuore. Una sera sono andato al mare per vedere che, non so perché, visto il mio passato e mi chiedo se ci sono mai stato. Mi rispondo di sì, ma non sono mica tanto sicuro. Guardo la luna che mi mette paura e mannaggia ste stelle che ci stanno a fare e in mezzo a questo mare. Non so nemmeno dove andare. Ma in questo deserto farò nascere un fiore per bagnarlo di lacrime, di gioia e di dolore. E tutto questo senza alcun timore, avanza all'indietro senza un cuore. Ma in questo deserto farò nascere un fiore per bagnarlo di lacrime, di gioia e di dolore. E tutto questo senza alcun timore, avanza all'indietro senza un cuore. Oh, oh, oh. I'm not.